Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio, bentrovati alla nostra trasmissione da Deborah Rosciani. La crisi c'è, l'ha nuovamente certificata ieri la Commissione europea ed è una crisi che non ha ancora esaurito i suoi effetti. Con questi effetti ci dovremo confrontare probabilmente per tutto il prossimo anno. Sta cambiando, lo abbiamo detto più volte in queste settimane, l'attitudine al risparmio delle famiglie italiane, ma anche l'attitudine al consumo, aspetto che si traduce in una minore richiesta di prestiti e a volte anche in una maggiore difficoltà a restituirli. Così il credito al consumo in Italia si appresta a vivere una stagione nuova dopo la grande crescita degli ultimi anni. Da una parte meno richieste da parte dei consumatori, anche se poi non tutti i soggetti finanziari indicano questa diminuzione appunto del trend, e dall'altra parte, questo è un aspetto molto rilevante, una stretta del credito e quindi anche una minor propensione da parte di banche finanziarie a concedere finanziamenti. Qual è la situazione? Con che cosa state finanziando la vostra tesoreria familiare? Avete sottoscritto di recente un prestito per esaudire quale desiderio, per rispondere soprattutto a quale necessità? È un tema che affronteremo quest'oggi con Andrea Poletto, direttore generale di Consumit, la società di credito al consumo del gruppo Montepaschi, e Maria Stella Anastasi, l'avvocato Anastasi, segretario della Lega Consumatori, consulente legale per questa associazione dei consumatori per il comparto bancario e finanziario, che tra l'altro ci presenterà anche un osservatorio che è quello dell'associazione dei consumatori di evidente difficoltà per molte famiglie italiane a rispettare e ad onorare gli impegni sottoscritti. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi, 349 238 6666 il numero per i vostri messaggi. La borsa è molto positiva in questo momento, qualcuno già si sta affrettando a parlare insomma con un netto anticipo rispetto al risultato elettorale di un effetto Obama in borsa, chissà se così è. In ogni caso, dopo una partenza molto più prudente, sta cambiando drasticamente il volto della seduta in Europa e gli indici del vecchio continente stanno continuando ad incrementare da stamattina i guadagni. Londra sta mettendo a segno un progresso dell'1,51%, abbiamo un più 2% a Francoforte, un più 2,5% a Parigi, Milano più 3,35% sull'S&P MIB, Milano spicca su tutte e vede oggi guadagni netti di A2A, la utility milanese, più 9%, Prismian più 7,51%, Autogrill più 7,42%, Unicredit sta tentando di riportarsi sui 2 euro e guadagna il 7,31%, Bulgari più 6,22, 6 punti di guadagno anche per Seat, pagine gialle di Impregilo, più 5 punti per Tenaris, Saipem e Fiat, nonostante i dati sulle matricolazioni di ieri sera, segno meno invece sull'Ottomatica, meno 1,45 Mediaset. Più 0,31%, questi sono i titoli più deboli. E siccome le buone notizie oggi non ce le vogliamo far mancare, a dispetto del tema invece che ha un po' anche aspetti preoccupanti in questo momento, vi dico cosa succede sull'Euribor, che sta toccando ancora nuovi livelli verso il basso, è al nuovo minimo da fine marzo al 4,7%. Insomma, Maria Stella, Anastasi, questa mi sembra una buona notizia per le famiglie anche in difficoltà con la restituzione delle rate del mutuo, stiamo tornando su livelli più sostenibili, no? Certamente. Questo è qualcosa che le associazioni dei consumatori si auguravano e chiedevano interventi in questo senso alle banche centrali da tempo, proprio perché la problematica della restituzione delle rate dei mutui con l'aumento appunto dei tassi nell'ultimo anno, anno e mezzo, aveva portato veramente a delle situazioni di grande difficoltà. E siccome giovedì la nuova riunione della Banca Centrale Europea dovrebbe definire una riduzione del costo del denaro, forse ne metterà di iniziative di questo tipo a segno almeno due entro la fine dell'anno, speriamo che questa tensione continui ad allentarsi e a dare un po' più di serenità alle famiglie che magari non sono riuscite a rinegoziare il mutuo, magari stanno pensando di farlo, insomma comunque le condizioni di mercato stanno tornando verso gradualmente, molto gradualmente verso la normalità. Noi lasciamo il mercato, andiamo invece al tema di questa mattina, parliamo di prestiti. Gli effetti più pesanti della crisi economica, secondo gli osservatori più pessimisti, devono ancora arrivare. E uno dei settori che ne risentirà maggiormente è senza dubbio quello del credito al consumo. Il mercato dei prestiti sarà colpito su due fronti, quello della domanda e quello dell'offerta. Nel mese di settembre è già stato registrato un forte calo dei consumi, meno 10%. In particolare, è aumentata la percentuale di coloro che hanno deciso di rimandare l'acquisto di beni non strettamente necessari come elettrodomestici, mobili o automobili, con un conseguente calo del ricorso al credito. Ma la crisi influenzerà anche la capacità di restituzione del finanziamento, facendo aumentare di conseguenza il tasso di insolvenza sui nuovi prestiti, che ha già toccato il 2,2% a marzo scorso, rispetto all'1,8% dell'anno precedente. Per quanto riguarda il lato dell'offerta, si è avviato invece un processo di restrizione del credito, anche se nei primi sei mesi del 2008 il numero delle richieste di finanziamento respinte è rimasto sostanzialmente in linea con i dati dell'anno precedente. L'attuale situazione di incertezza è stata ben fotografata dal rapporto ACRI, presentato in occasione dell'84esima giornata mondiale del risparmio. Secondo questi dati, dal 2001 si è triplicato il numero degli italiani che sono ricorsi a prestiti e dal 2004 è più che raddoppiato. Tuttavia, molti vivono il prestito con timore. Il 64% ritiene il credito al consumo più un rischio che un'opportunità e ancora più forte è la diffidenza verso strumenti come le carte di credito revolving. Appena il 15% degli italiani ne possiede una. Le famiglie in difficoltà finanziaria però sono in aumento e probabilmente nei prossimi mesi faranno ricorso a forme di prestito, con la speranza, presto o tardi, di poter saldare il proprio debito. 800 24 00 24, numero verde per chiacchierare con noi, per raccontarci se vorrete la vostra situazione. Perché avete chiesto un prestito di recente, per soddisfare quale necessità di tesoreria familiare? Oppure cosa pensate anche di questo fenomeno che ha conosciuto insomma tassi di crescita a due cifre negli ultimi anni in Italia? Adesso le società, i principali player del mercato ci continuano a sostenere che i tassi di crescita sono ugualmente molto alti, ma le associazioni dei consumatori dal canto loro testimoniano invece di una crescente difficoltà per le famiglie italiane nel onorare i prestiti sottoscritti. Allora, Andrea Poletto, direttore generale di Consum.it, Consumit, la abbrevierò nel corso della trasmissione. Dottor Poletto è la società di credito al consumo del gruppo Monte dei Paschi, benvenuto. Buongiorno. Allora, ci dobbiamo preoccupare, qual è la situazione che può raccontarci dal vostro punto di vista? Abbiamo parlato in questi anni di questo fenomeno come di un fenomeno sano, visto che insomma abbiamo cominciato a vedere dei tassi di crescita che sicuramente non sono stati equiparati a quelli dei paesi anglosassoni. Per qualcuno non è stato poi così sano questo fenomeno, perché gli italiani non si sono mai indebitati volentieri. Dottor Poletto, oggi di che cosa stiamo parlando? Ma io direi, intanto darei una dose anche di serenità su tutti questi temi, perché il mercato italiano rispetto ad altri mercati è un mercato comunque dove non c'è un fenomeno di sovraindebitamento. In termini di patrimonio delle famiglie italiane, soltanto il 6% del debito rispetto alla ricchezza è un dato che si compara con dati molto più alti, il doppio per la Francia, per la Spagna, dati molto più significativi, tre volte per la Germania. Quindi diciamo, le famiglie italiane oggi un fenomeno di sovraindebitamento non c'è, sono sempre state molto caute. Come sta andando il mercato? Il mercato quest'anno è cresciuto, si sta trasformando, sta diventando un mercato più maturo, un mercato dove i prestiti finalizzati, quelli quindi per essere utilizzati per comprare un'auto, per comprare un'auto nuova, un'auto usata, per comprare un frigorifero, un elettrodomestico, sono scesi con dati a settembre anno su anno. Il finalizzato ha avuto una contrazione di circa l'11% a livello di mercato, quindi un mercato in discesa. Il mercato sta passando più verso i prestiti diretti, un maggior ruolo anche del sistema bancario. Questo in qualche modo ha contribuito anche a creare ovviamente più concorrenza sul mondo dei prestiti personali. I prestiti personali quest'anno sono cresciuti del 15% a livello di mercato. È un mercato che sta diventando più maturo, perché negli altri paesi europei il peso che in Italia aveva la prima ondata di indebitamento delle famiglie con il finalizzato in altri paesi è un peso che è del 25% dell'erogato in termini di indebitamento delle famiglie. In Italia fino a qualche anno fa era quasi il 50%, era più del 50%, 12 anni fa era il 70% era finalizzato. Quindi c'è un cambio di mix, un cambio di attori, un'industria che si sta concentrando, ci sono state tante concentrazioni, Linea Compass, Gruppo Mediobanca, Ducato con Agos, sì, infatti. Quindi è un mercato che si sta concentrando, dove vedo ovviamente per anche i consumatori un'offerta che sempre di più si sta qualificando, le banche che pongono più attenzione a questo segmento, quindi sempre meno spazio per operatori che io chiamo un po' garibaldini. Selvaggi, chiamiamoli così. Dottor Poletto, io la stop, ovviamente lei ci ha dato il suo punto di vista della situazione, bisogna vedere, qui mi permetto di lanciare subito la prima provocazione che poi commenteremo, se tutto questo continua ad avere come dire, un connotato di fenomeno sano, perché il passaggio per esempio dal prestito finalizzato al prestito diretto, al prestito personale, bisognerebbe anche vedere, valutare che cosa nasconde, quindi riduzione dei consumi e di conseguenza minor richiesta di prestito per acquistare l'auto o l'arredamento nuovo della casa. Se andiamo direttamente in banca perché abbiamo bisogno di liquidità, lì bisogna vedere a che cosa ci serve anche questo denaro, se siamo con l'acqua alla gola, e quindi in qualche maniera questo denota appunto una situazione di difficoltà molto meno evidente. Comunque, una fotografia sullo stato di indebitamento delle famiglie italiane è stata fornita venerdì scorso in occasione dell'84esima giornata mondiale del risparmio dal governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, che ha esortato le banche a stare più attente alle famiglie più vulnerabili. Le famiglie italiane sono fra le meno indebitate del mondo avanzato, non soltanto nel confronto con i paesi anglosassoni, ma anche con quelli dell'Europa occidentale, continentale. Il rapporto tra debiti finanziari e reddito disponibile è da noi minore del 50%, è del 90% in media nell'area dell'euro. Il numero e l'ammontare delle insolvenze sui prestiti delle famiglie rimangono molto contenuti e non si discostano dai valori registrati negli ultimi anni. Tuttavia è necessario che le banche siano particolarmente attente nella gestione dei rapporti con le famiglie, soprattutto quelle finanziariamente più vulnerabili. Maria Stella Anastasi, avvocato Anastasi, ci sono molte famiglie vulnerabili, gli osservatori appunto delle associazioni dei consumatori indicano evidentemente situazioni piuttosto problematiche. Certo, perché come diceva lei, il ricorso al prestito personale anziché finalizzato è significativo di un fatto che noi riteniamo molto grave, utilizzare il contante, quindi la liquidità, per andare a pagare altri debiti, quindi è stato utilizzato per pagare mutui, quindi per integrare il pagamento delle rate di mutui, per integrare il pagamento di altri prestiti. E non mi riferisco in questo caso a situazioni marginali di persone con difficoltà o persone che hanno perso magari il lavoro, che non hanno reddito. Io mi riferisco a persone che il reddito ce l'hanno. Noi abbiamo situazioni di pensionati, di lavoratori dipendenti, anche dipendenti tra virgolette normali, quindi non contratti atipici, non persone con lavoro a tempo determinato, persone che ci dicono io ho fatto ricorso al prestito personale, alle carte, quindi carte revolving eccetera, perché avevo bisogno di liquidità. Quindi questo è, come dire, in qualche modo da parte nostra, dell'osservatorio, delle associazioni, il punto che noi riteniamo grave, il fatto che evidentemente un problema in questo settore c'è. Quindi, nonostante appunto, come ci dicono i player di mercato, il dottor Poletto appunto ce lo può testimoniare, tutto sommato siamo ancora a tassi di crescita, se andiamo a guardare gli stock globali, contenuti rispetto alle altre realtà che invece, certo, hanno una tradizione consolidata per quello che riguarda il fenomeno del credito al consumo. Poi appunto, proprio per il fatto che magari noi non eravamo abituati, certo, ad indebitarci in questa maniera, adesso vengono allo scoperto anche situazioni problematiche. Allora, 800 24 00 24, peraltro stamattina il presidente dell'Eurogruppo a Bruxelles, Jean-Claude Juncker, ha detto: anche per le carte di credito potrebbe effettivamente scoppiare una bolla speculativa, ed è per questo che occorre prendere seriamente questa minaccia. Questo è vero naturalmente per gli Stati Uniti, dove il rischio credit crunch, appunto per quello che riguarda le famose revolving, che anche noi qua conosciamo, ma anche in questo caso abbiamo avuto tassi di crescita molto inferiori, insomma è ormai un fenomeno che potrebbe scoppiare da un momento all'altro. Stiamo dedicando anche a questo tema tante puntate e magari ci torneremo anche oggi. Sentirei però subito i nostri ascoltatori. Allora, Francesco da Palermo, benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno. Il problema è stato nei ritardati pagamenti. Per risolvere il problema ho fatto il primo prestito con la banca per pagare tutte le finanziarie. Pronto? Sì, la sentiamo. Beh, Francesco, certo. Per pagare tutte le finanziarie. Le finanziarie, una volta che io ero indietro con i pagamenti, volevano pure gli interessi. E io il prestito che avevo fatto ha coperto solo le rate, non ha coperto gli interessi. Quindi non ho risolto niente. Ho fatto un altro debito per pagare gli interessi e sono con due debiti sulla busta paga e utilizzo la scopertura perché la vita è carissima. Non si può comprare, cioè non si può fare più la classica spesa, riempire il carrello, si compra il necessario. quello che serve giornalmente. Io ho 4 figli, mia moglie non lavora, sono in affitto, sono un impiegato del comune e certo, prendo un buon stipendio, non riesco più a vivere. Francesco, situazione insomma ben nota allo sportello della Lega Consumatori, però volevo tornare ad Andrea Poletto perché in qualche maniera adesso forse magari con Francesco abbiamo così ascoltato la testimonianza di una situazione di difficoltà molto seria, pregressa, però mi pare di capire anche che alla luce della crisi finanziaria attuale l'offerta si stia un po' modificando anche nei termini in cui si propone al pubblico, ai consumatori. Ora la flessibilità è diventata la parola d'ordine, dottor Poletto, no? Anche per voi, per esempio, stavo dando un'occhiata sul vostro sito consum.it e ci sono molti prestiti appunto che permettono di scegliersi la rata sostenibile in qualche maniera, ma tutto parametrato ovviamente anche la situazione reddituale, no? È fondamentale il termine flessibilità, è un termine che qualifica l'offerta ovviamente Consum e Montepaschi, ma crea un po' del sistema e tutta la concorrenza. Flessibilità vuol dire, allora, deve essere chiaro che non c'è un interesse da parte di un soggetto finanziario sano, direi che tutto il sistema bancario italiano, come diceva anche il governatore nel suo intervento, avete riportato, lo direi sano, lo definirei sano, non c'è interesse a spingere sul sovraindebitamento. E sovraindebitamento vuol dire che la rata non è più sostenibile, quindi ci sarebbe un avvitamento negativo e per il consumatore e ovviamente per il soggetto finanziario. Dare rata flessibile vuol dire, sulla base delle caratteristiche del cliente, avere un'offerta che consente, con tutte le diverse forme tecniche, di dare quella rata che è assolutamente sostenibile per quel cliente, soddisfacendo le esigenze ovviamente del cliente. Il che vuol dire, per esempio, che per un pensionato l'offerta di credito responsabile più indicata probabilmente è una cessione del quinto oggi, perché in Italia ha una forma tecnica la cessione del quinto che altri paesi ci invidiano. Per un pensionato in banca con un TAEG che può essere dell'8, 8,50 massimo, un pensionato può avere un finanziamento fino a 10 anni, un pensionato di 70 anni può impegnare fino a un quinto della sua pensione, fino a 80, senza pagare assicurazioni. Ecco, invece per una situazione come quella dell'ascoltatore palermitano, dottor Poletto, qual è la soluzione? Allora, la situazione che riporta ovviamente l'ascoltatore palermitano Francesco è una situazione dove mi sembra di capire che è dipendente pubblico, mi sembra di capire che forse... Che ha già due impegni finanziari in corso. Si tratterebbe di capire, essendo dipendente pubblico, è un dipendente a cui, che potrebbe aderire tendenzialmente alla cessione del quinto, che forse erogata attraverso le banche ai dipendenti pubblici avrebbe il costo di indebitamento più basso. Probabilmente il suggerimento che farei io a Francesco è di provare a consolidare il suo debito anziché avere due rapporti, definire con la sua banca quale può essere la rata sostenibile allungando la durata del finanziamento e cercando di andare a privilegiare quelle forme di finanziamento a tasso più basso. Allora, la cessione del quinto ha un valore per l'istituto finanziatore perché sostanzialmente per un dipendente pubblico azzera il rischio di credito perché il datore di lavoro non è fallibile. Azzerando il rischio di credito c'è soltanto un'esposizione finanziaria ma non c'è bisogno di coprire un rischio di credito, quindi forse nel caso di Francesco si tratterebbe di studiare la sua posizione e di proporre un consolidamento del suo debito attraverso una forma tecnica a più basso costo. Avvocato Anastasi, insomma, in una situazione in cui il credit crunch non ha, non utilizziamo questo termine in inglese, effetti così dirompenti nel nostro paese, in cui però comunque le banche iniziano a chiudere i rubinetti del credito alle aziende oltre che alle famiglie, una situazione come quella di Francesco come può essere risolta, visto che ha già degli impegni in corso, una situazione familiare, per fortuna almeno la stabilità del lavoro, e questo non è di trascurabile importanza, ma che cosa deve fare un ascoltatore con comunque la sensazione di avere l'acqua alla gola? Il vero problema è che quasi tutte le situazioni sono come quelle che ci ha raccontato Francesco, cioè abbiamo situazioni di questo genere dove però nel momento in cui cominciano a non riuscire a pagare le rate e la situazione di Francesco è, come dire, nella media, perché poi in genere i finanziamenti sono 5 o 6, non solamente due come ci ha raccontato l'ascoltatore. Quindi a quel punto la difficoltà nasce dal fatto che le finanziarie, le banche, anziché, come dire, venire incontro cercando appunto di creare un consolidamento del debito, creare una rata unica eccetera, non fanno altro che prendere la posizione e mettere in mano alle società di recupero crediti. Quindi l'interlocutore anche dell'Associazione di Tutela dei Consumatori che cerca di trovare una soluzione con questo utente è quella di parlare con dei call center di società di recupero crediti che, ripeto, a loro volta fanno il loro lavoro, ma non riusciamo a, come dire, trovare quelle soluzioni, perché è come se cadesse immediatamente un muro tra il consumatore che non riesce più a pagare la prima rata, perché poi si innesca un procedimento perverso per cui entra in centrale rischi e quindi con tutto quello che ne consegue, e non riusciamo a trovare una soluzione per queste persone, quindi si avvita ancora di più la loro posizione. Quello che le associazioni chiedono da anni in realtà, perché non è da adesso ma da anni che le associazioni hanno il termometro di questa situazione, è un tavolo comune con l'ABI, con la Banca d'Italia, comunque con la Assofin, con tutte le società che erogano credito alle famiglie, per cercare di trovare una soluzione comune. Da un lato per le situazioni che sono già in, come dire, in fase esplosiva, e quindi per esempio anziché passare le posizioni al recupero crediti, creare un tavolo di conciliazione per fare in modo che appunto queste persone non debbano oltretutto essere ulteriormente penalizzate. Questo chiaramente per le situazioni che, ripeto, sono già in difficoltà, mentre per chi in qualche modo è all'inizio di queste posizioni, cercare di trovare delle soluzioni comuni. Poter avere il modo, insomma, di attivare un'azione preventiva. Esatto. Eccoci a Salvadanaio a parlare questa mattina di prestiti, le nuove tendenze sia dal punto di vista della domanda che dell'offerta. La domanda cambia perché stanno ovviamente nel piano della crisi finanziaria scendendo i consumi, e di questa tendenza abbiamo parlato più volte. Stiamo parlando poi delle variazioni anche dell'offerta. Ovviamente le banche, le finanziarie negli ultimi anni hanno cavalcato molto volentieri questo fenomeno che stava crescendo vistosamente anche nel nostro paese. Adesso abbiamo un attimo probabilmente di riflessione, di ripensamento e anche di qualche difficoltà per molte famiglie italiane. Temi che stiamo affrontando con Andrea Poletto, direttore generale di Consumit, la società di credito al consumo del gruppo Montepaschi, e l'avvocato Maria Stella Anastasi, segretario della Lega Consumatori. Per le vostre domande il numero è l'800 24 00 24, sono pronti a fornirci la loro testimonianza Maurizio della provincia di Roma, che sentiamo molto volentieri perché il tema della revolving volevamo proprio affrontarlo in tempi rapidi. Maurizio, benvenuto. Grazie. Dunque, quello che io volevo chiedere e che mi solleva dei grandi dubbi, delle grandi incertezze, è il fatto seguente. Stamattina in un supermercato di cui non faccio il nome, un articolo che io ho acquistato, 25 euro, mi sarebbe costato 19 se io avessi acquisito una loro carta. Quindi c'è un, noto che c'è un forte incentivo da parte della società a preferire acquisti facendo debito piuttosto che pagamento in contanti. Oh, e poi gradirei sapere dagli esperti le differenze, anche in riferimento alla legge antiusura, tra il credito erogato dalle banche in soldi e il credito al consumo che raggiunge cifre elevate. E che mette in difficoltà la gente, cioè questo anacronismo, questa discrasia. Se siete in grado di spiegarmelo, io vi ringrazio. Maurizio, ci proviamo, la ringrazio molto. Allora, cominciamo con la revolving. Andrea Poletto, Consumit, Monte dei Paschi. Allora, parlava Maurizio del fatto che ovviamente, come dire, ha fatto riferimento ad una situazione che gli è capitata questa mattina, però insomma ha sollevato un tema abbastanza evidente, cioè di come anche siate state tutte molto aggressive in termini di politiche commerciali e di marketing negli ultimi anni per poter ovviamente aggredire il mercato al meglio, visto che era ampiamente scoperto. Ma questa tentazione che avete messo sotto gli occhi di tutti i consumatori di favorire ovviamente l'acquisto a rate piuttosto che il pagamento a contanti, ovviamente anche attraverso la convenzione con le catene della grande distribuzione, insomma, possiamo commentare quello che diceva Maurizio? Sì, io commenterei. Intanto molte volte il riferimento di cui parlava Maurizio non è necessariamente una carta di credito. Molti grandi distributori hanno carte loyalty perché cercano di fidelizzare la propria clientela, quindi bisogna intanto distinguere. Molti supermercati, grande distribuzione, hanno le loro carte, che sono carte punti, quindi non necessariamente una carta di credito. Quindi insomma magari il nostro ascoltatore si può essere sbagliato con una carta di fedeltà? Potrebbe essere anche una carta di fedeltà. Vabbè, magari poi secondo magari. Elemento, le carte revolving fanno parte della categoria delle carte di credito. In Italia carte di credito ce ne sono circa 35 milioni. È un mercato rispetto anche ad altri paesi europei, io parlo dei paesi europei, evitiamo i paesi anglosassoni, parliamo sempre di Francia e Spagna che sono più vicine a casa nostra. La Francia fa 9 volte più spese con carta di credito di quella che è la spesa pro capita italiana, quindi le carte francesi girano molto di più delle carte italiane anche medie. La carta di plastica in generale danno anche, adesso prima di connotarle come strumento infernale di indebitamento delle famiglie, le carte di plastica hanno significato anche per il paese Italia passare a una modernizzazione dei sistemi di pagamento, perché ricordiamoci che il contante è un qualcosa che costa anche al sistema bancario, sì, l'abbiamo parlato molto spesso. È un sistema più costoso per il sistema bancario, meno sicuro per i negozianti, con tutta una serie di implicazioni anche di economia al nero. Quindi passare alla monetica, alle carte di pagamento, che possono essere carte come il Bancomat, che è molto apprezzato dagli italiani, o le carte di credito, che siano a saldo o a revolving, direi anche una valenza positiva in logica di sviluppo paese. Carte revolving, le carte revolving ci sono carte che hanno partono dal 12% di tasso di interesse e che arrivano fino anche al 22% se sono emesse a finanziarie. Quindi ovviamente il consumatore deve stare molto attento con lo strumento di plastica che si trova in mano. Peraltro il trend sono che c'è stato un forte raffreddamento da parte, diciamo, in termini di consistenze di credito al consumo con carta revolving. Il mercato è sostanzialmente piatto. Quindi gli italiani hanno iniziato a utilizzare questo strumento. E diciamo che l'hanno abbandonato anche abbastanza, diciamo, rapidamente. Che probabilmente rispetto ad altri paesi l'abitudine, i clienti che in qualche modo erano propensi allo strumento ce l'hanno già in tasca, è molto più difficile penetrare su altre fasce di clientela che sono poco inclini in generale a utilizzare la plastica e poi a utilizzare la plastica per indebitare. Ci sono però delle situazioni che mi raccontava a microfoni spenti l'avvocata Anastasi, ma adesso li raccontiamo anche a microfoni aperti, in cui nonostante delle situazioni visibilmente precarie dal punto di vista reddituale di molti consumatori che si rivolgono alla sua associazione, e nonostante questo, e nonostante tra l'altro il profilo sia anche visibile a tutti i soggetti finanziari, nel momento in cui io vado a fare una richiesta ad una banca, ovviamente la banca ha un database nel quale con grande facilità può monitorare qual è la mia situazione anche pregressa in termini di finanziamenti già accesi o quant'altro, c'è chi comunque è pieno di carte revolving, avvocata Anastasi. Assolutamente sì. Una cosa che mi premeva precisare è che spesso non stiamo parlando di marginalità sociale, di persone quindi con profonde difficoltà, persone disoccupate eccetera, ma stiamo parlando di persone che spesso si trovano in difficoltà finanziarie per esempio per problemi di malattia a seguito di situazioni familiari legate per esempio alle separazioni, ai divorzi, quindi situazioni che non sono di marginalità anche occupazionale e quindi in realtà quindi secondo noi è ancora più grave. Situazioni che noi vediamo nelle associazioni, a fronte di un primo prestito parte una catena di Sant'Antonio di invio di carte revolving, carte già attivate, che noi riteniamo essere pericolose perché ovviamente sono una pistola alla tempia. Ma attivate in che modo? Da dove attingono queste carte? Voglio dire, se io faccio un pagamento con una carta revolving, la carta deve essere autorizzata, la società che me la manda, ad attivare la restituzione presso un conto corrente. Se nessuno autorizza, come si fa? Arrivano e sono autorizzate, praticamente vengono immediatamente utilizzabili, diventano immediatamente utilizzabili. Questo è quello che ci riferisce l'utenza. È evidente che c'è un conto corrente di riferimento. È un contratto sottofirmato, evidentemente, certamente, magari non consapevole. Certamente, perché questa è un'altra problematica, il problema della trasparenza di questi contratti. Quindi è chiaro che al centro commerciale, al supermercato e quant'altro vengono sottoposte queste modulistiche, purtroppo mai sufficientemente chiare, anche se ci stiamo lavorando da anni in collaborazione anche con i gruppi bancari eccetera, non sono mai sufficientemente chiare, vuoi nella indicazione dei tassi di interesse e quant'altro, e questo porta ovviamente a problematiche di questo genere. Per quanto diceva invece l'utente esatto. di prima, un problema che noi abbiamo segnalato anche all'Antitrust, lo abbiamo segnalato indicando da parte nostra come pratiche commerciali sleali, queste differenze tra, lui diceva, il fatto di comprare un prodotto in contanti ad un prezzo e quindi più elevato e invece con carta di credito con credito al consumo con un prezzo inferiore. Scontato. Ecco, queste problematiche le abbiamo già segnalate come associazione di tutela dei consumatori all'Antitrust, indicandole da parte nostra come pratiche commerciali sleali. è di tutta le banche ci dicono insomma che in sostanza è solamente un modo per monitorare un po' la situazione, ovviamente avere accesso ad una platea di consumatori sempre più ampio potrebbe essere anche, come dire, una ragione buona, sì, poi però molto spesso ci troviamo invece affogati di prestiti, esatto, nostro malgrado. Sentirei un paio di domande, poi sentiamo i suggerimenti per chi è in viaggio e poi continuiamo la nostra conversazione. Daniele da Pescara, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Complimenti alla radio. Grazie. Niente, io c'ho un finanziamento con una finanziaria. Mi sono recato in finanziaria chiedendo se potevo in pratica chiudere il finanziamento. Sì, estinguerlo, sì. Tutto. Mi è stato risposto che non era possibile. Mm. L'unica cosa che potevo fare è aumentare la rata di restituzione. Mm. E anche con una penale, Daniele? Cioè... Ma eppure con la penale, ha detto no, non deve rimanere per... Inchiodato lì per tutta la vita? Per tutto il periodo del finanziamento. E quindi non è riuscito. Tra 9 anni io lo volevo fare subito, volevo rientrare subito in pratica. E beh, giustamente, è nelle condizioni di poterlo fare. Certo, Daniele. Faccio fatica a domare in studio l'avvocato Anastasi, con la quale potrei fare trasmissioni di ore e ore e ore e troveremo molte cose da raccontarci. Dottor Poletto, senza naturalmente togliere nulla a lei e al gruppo Monte dei Paschi. Però allora, abbiamo sentito quello che ci ha raccontato Daniele da Pescara. Si trova nella condizione di poter estinguere anticipatamente un prestito, la finanziaria gli dice no grazie. Perché? No, io direi sicuramente il nostro utente dovrebbe recarsi col suo contratto di finanziamento in un'associazione di tutela dei consumatori della sua città, una qualsiasi, l'elenco lo trova sempre sull'elenco telefonico, perché in realtà non è vero, cioè con il pagamento di una penale peraltro minima che va intorno all'1-2%, quasi tutti, direi tutti ad oggi i contratti di finanziamento è possibile estinguerli anticipatamente. Poi mi sembra strano in un momento in cui banche finanziarie vorrebbero rientrare però, molto volentieri di grande però è liquidità, innegabile che potrebbe esserci tra virgolette qualche cosa legata al suo contratto, quindi la cosa migliore è che lui legga il suo contratto insieme a un consulente di un'associazione e valutare insieme appunto magari prendendo ripeto contatto con gli uffici della finanziaria e quant'altro perché ripeto le problematiche con le finanziarie nascono quando c'è difficoltà nei pagamenti, però in situazioni di questo genere normalmente c'è un grande dialogo, per cui direi che assolutamente lui deve andare fiducioso e esaminare il suo contratto infatti. Attentamente. Vogliamo sentire una voce pro prestito. Luciano da Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno. Benvenuto. Sono Luciano, ho 39 anni, sono di Treviso. Una bellissima età, Luciano, mi permetta di dire. Grazie. Allora, niente, io per vicissitudini familiari, negli anni 80 la mia famiglia ha avuto un tracollo finanziario. Sì. Quindi negli anni 80 ho studiato e lavorato e ho cominciato a fare prestiti già negli anni 80, ho fatto il primo prestito a cambiali per il motorino, poi via via per la macchina, poi per le altre cose, super elettriche e altre cose, e poi fino adesso che è un'attività commerciale per l'attività. Io se devo dire la verità mi sono trovato sia molto bene con le banche, a parte che all'epoca i tassi di interesse erano altissimi, però grazie a loro io adesso ho potuto essere un imprenditore, ho un reddito molto buono e mi sono trovato bene. Attualmente ho ancora un finanziario che mi ha fatto un prestito di 70.000 euro per due furgoni nuovi e tra l'altro mi manca pochissimo per finire di pagare. Io consiglio che do alla gente, posso dire solo questo, per chi vuole fare qualcosa e ha bisogno di un prestito deve sempre avere la realtà sotto mano, cioè quanto la rata può essere realmente pagata. Certo. Ho sempre fatto la rata in base a quello che potevo permettermi. E in questo naturalmente Luciano credo che lei abbia trovato anche degli interlocutori però assolutamente responsabili anche nel rapporto con lei. Qua il problema è quando ci troviamo di fronte invece soggetti non tanto responsabili nel rapporto con la propria clientela. Oltretutto Luciano mi dà anche modo di ricordare quando qualche settimana fa ci siamo di nuovo occupati di carta di credito e molta gente contesta il fatto di averla contesta anche il fatto dell'utilizzo della moneta di plastica perché ci non si ha mai la percezione di quanto si spende perché comunque tu vai, strisci e non sai, ma insomma se siamo in grado di fare un bilancio di quello che entra e esce dalla nostra casa, dal nostro stipendio, dal nostro portafoglio, quindi cerchiamo anche di un attimo renderci tutti quanti più responsabili. Poi la situazione di difficoltà è un'altra cosa, possono esserci situazioni di disagio come quelle che l'avvocato Anastasi raccontava legate alla salute, eventi drammatici nelle case e qui è un altro paio di maniche, però cogliamo molto volentieri volentieri appunto la considerazione del nostro ascoltatore di Treviso. Abbiamo anche, guardi, facciamo un po' Sandra da Roma, che c'è una telefonata per il dottor Poletto di Consumit. Sandra, buongiorno. Salve, buongiorno. Anche io ho 39 anni. Siamo tutti coetanei, qua alziamo il velo anche sull'età, via. Sì. Allora, niente, io qualche anno fa dovevo pagare un corso di inglese e mi è stato chiesto di fare la forma di finanziamento. Tra l'altro non ero molto propensa, però era l'unico modo per pagare questo corso di inglese. Vabbè, però lei l'ha fatto, Sandra, certo. No? Altrimenti non avrebbe avuto l'opportunità. No, lo volevo pagare, per me non c'era problema a pagarlo in contanti, mi è stato imposto alla formula del finanziamento, vabbè, quindi mese per mese, il cedolino con la Consumit. Guardi Sandra, quello che sta capitando a me con la palestra, eh. Ecco. Quindi, ecco, vabbè. Allora, finito... Non con Consumit, però, vabbè. Finito e estinto il pagamento, sono passati pure parecchi mesi, mi arriva a casa una bella carta di credito, gratuita, regalata da Consumit. Sì. Naturalmente io, cioè, ci sono rimasta anche un attimo perché non l'avevo assolutamente richiesta, non avevo assolutamente bisogno, quindi ho chiamato subito la Consumit e mi sono fatta sentire perché io non volevo assolutamente questa carta di credito, infatti ho distrutto tutto e io ho detto che mi dovevano proprio cancellare dalla loro banca dati, perché il fatto di quest'altra carta di credito per me era anche psicologicamente un attimo una sorta di come, io ho stinto il debito, che cosa significa questa carta di credito? Vabbè Sandra, cosa sarà successo mai? Basta che non l'attiva e tanti saluti, la lascia lì. Il problema è per chi invece è tentato l'attiva. Dottor Poletto, allora, visto quanto si è arrabbiata Sandra? Sì, questo è un tema che noi partecipiamo come Montepaschi Consumit a Consumer Lab, con tutta la società dei consumatori. Abbiamo rivisto anche con la Camera di Commercio di Firenze tutta la nostra contrattualistica. Questo tema delle carte connesse al finanziamento è uno di quei punti dove con l'Associazione dei Consumatori abbiamo una posizione molto chiara. È ovvio che quando si fa un finanziamento, il nostro business è anche quello di andare a indirizzare laddove in futuro un cliente abbia necessità di utilizzare ulteriori finanziamenti, fidelizzare quel cliente. È ovvio che il contratto prevede, tutti i nostri contratti prevedono a chiare lettere che se un soggetto non vuole essere contattato a fini di marketing c'è la decretazione della privacy. Se un soggetto è interessato, non vuole avere una carta di credito, può barrare che non è interessato ad avere la carta di credito su tutte le nostre modulistiche. Se non fa queste due cose, noi proviamo a mandare un prodotto che è un prodotto che, uno, è un prodotto che se non viene attivato non esiste, non esiste in natura, non è giuridicamente attivo, quindi in qualche modo non ha nessun onere per il cliente. Se il cliente lo utilizza, come diceva lei, paga un prezzo che è scritto nel contratto in modo molto chiaro. Tutti i nostri contratti sono stati come Montepaschi, abbiamo dovuto ingrandire i caratteri, esplicitarli molto con la società dei consumatori, quindi io direi di nuovo, non bisogna generalizzare, nella fattispecie la signora, molti clienti ci chiamano perché dicono io non mi ricordo di aver sottoscritto la carta di credito, la risposta è guardi, se vuole la taglia e non succede nulla, se può interessarla la tenga, se non è più interessato per il futuro noi comunque non la rinviamo perché quel prodotto è un prodotto a scadenza. Se il cliente non l'ha attivata, noi non spediamo più la carta. Non la spedite più. Il costo per il cliente non esiste, è zero, c'è soltanto se lo utilizza. Quindi questo è molto chiaro, molto rasserenante per i clienti. Devo dire che non tutti gli operatori del settore si muovono con la stessa discrezione, però tendenzialmente è una prassi in Italia, è servita anche per spingere l'utilizzo della monetica, che ripeto ha un valore per il sistema paese. Però non a scapito del consumatore. Di nuovo, il consumatore accorto oggi, se un cliente vuole sapere quanto può permettersi, mi è piaciuto l'intervento dell'ascoltatore precedente di Treviso, oggi può andare sul sito dell'Associazione Finanziaria Italiana di Assofin, monitorata www.monitorata.it, esatto. Inserisce il proprio reddito e vede quanto può sopportare. Di nuovo, è interesse sia dell'ente finanziario sia del cliente non anche andare se mai poi, a fare un passo più lungo della gamba. Anche se poi ovviamente solamente il parametro del reddito non basta, perché bisognerebbe anche vedere insomma poi lo stile di vita, le abitudini che si hanno e tanti altri magari fattori estremamente soggettivi che esulano, vengono inseriti, perché vengono inseriti anche questi. Ne abbiamo anche tra l'altro parlato con Giuseppe Piano Mortari, che è segretario operativo di Assofin, esattamente, proprio di Monitorata, nei mesi passati quando l'iniziativa è stata lanciata. 10 secondi di tempo ad Andrea Di Bari per poi concludere con l'avvocato Anastasia. Anche oggi Salvadanaio è volata, ma sapete bene, questo è un tema che bazzichiamo molto di frequente. Andrea, benvenuto. Buongiorno. Rapidissimo, perché stiamo chiudendo, grazie. Era un commento e provocazione a quello che avete appena finito di dire. Sì. La gente, secondo me, spende molto di più di quello che guadagna. Basta guardare quando apri un catalogo di viaggi, paghi oggi, parti oggi, paghi domani. Si riempiono i carrelli della spesa, sono tutti vestiti firmati, tre telefonini all'ultimo grido e non lo usano nemmeno per lavoro. Ma questa è colpa delle banche, Andrea? O è colpa anche della nostra educazione? È il discorso di prima. Io sono andato a guardare una televisione a Natale dell'anno scorso, volevo comprarla in contanti e costava meno se la pagava rate. Cioè, sinceramente è il discorso di prima. È un'istigazione a consumare in maniera rate. Un'istigazione. Avvocato Anastasi. No, ma ci mancherebbe. Dottor Poletto, lo conosco, partecipo a Consumer Lab per conto della mia associazione e so benissimo quanta attenzione ci sia. Non c'è nessuna volontà assolutamente di criminalizzare nessuno, ci mancherebbe. L'unico problema nasce da questo, sicuramente è un problema di cultura, di informazione, di educazione. E questo è sicuramente compito nostro, delle associazioni dei consumatori, comunque del sistema bancario, e dobbiamo lavorare tutti insieme per migliorare questo settore, ripeto, dell'informazione. È innegabile, come diceva adesso ancora l'ultimo ascoltatore, che c'è stata una certa, si è largheggiato un po', diciamo così. Il fatto che situazioni, come diceva prima il dottor Poletto, dice dovrebbe emergere la posizione del cliente. Ecco, noi ci siamo trovati con casi in cui, a fronte di un reddito di 1.400 euro, sono stati erogati 6 o 7 finanziamenti per importi. Ovviamente, monitorata purtroppo in questi casi, evidenza che non ha funzionato. Non ha funzionato. Grazie ad Andrea Poletto, a Maria Stella Anastasi per essere stati con noi, sempre con i soliti 45 secondi di ritardo. Anche oggi Salva Danaio termina qua e noi ci risentiamo però anche stasera a Focus Economia da Deborah Rosciani. Buona giornata. Salva Danaio.